Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come amo dire, mi fa davvero piacere, buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail ormai la conoscete, è unabusoalgiorno@radio24.it. Mi scuso per i lunghi tempi di attesa per alcune mail che ci giungono. Devo dire che, per fortuna, ne arrivano tantissime e non riusciamo a reggere il ritmo. Spero di riuscire ad accelerare un po' alcune, magari un po' più urgenti. Vi ricordo anche il mio blog, mi fa piacere se lo visiterete, ci scriverete, commenti. Guardi o ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, voi sapete che molto spesso noi abbiamo affrontato in questa trasmissione temi legati ad un enorme abuso, ad uno dei più grandi abusi, possiamo definirlo così, anche se creare delle gerarchie e delle graduatorie è complesso, ma comunque gli abusi nei confronti della vita delle persone, soprattutto quando la propria vita viene spesa per quella degli altri, lo si può fare in molte forme. Renato De Sciscio, che è vicepresidente della Federazione Nazionale Anti-Racket, nonché presidente dell'Associazione Anti-Racket di Bari, ha scelto di seguire la strada di dedicare la propria attenzione, la propria vita sociale ad un fenomeno, appunto il racket e l'usura, che rischia di mangiare passo dopo passo fette intere della società italiana. In questo caso della società pugliese. Ne parliamo con lui oggi perché recentemente sono tornate ad esserci delle minacce molto forti contro la vita di quest'uomo. Ed è per questo che ho il piacere di salutarlo. Buongiorno De Sciscio. Buongiorno, ringrazio tutti quanti, ringrazio anche la radio che ci mi sta ospitando. Allora, siamo noi che la ringraziamo perché per noi i temi di legalità sono una costante, debbono essere una costante per la crescita di questo paese. Allora, leggo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, leggo giusto un titolo, ma in realtà purtroppo come questi ce ne sono stati tanti, un proiettile in busta chiusa per il vicepresidente della Federazione Anti-Racket. Allora, è il primo, non sarà l'ultimo. Come interpreta questo segnale di graziosa attenzione nei suoi confronti? Penso che questo segnale è il motivo che vuol dire che la nostra associazione, il mio ufficio anche legale, funziona tantissimo bene, perché negli ultimi episodi ci stiamo occupando in tutta la zona pugliese di criminalità. E possiamo anche dire che in poco tempo abbiamo presentato tantissime denunce di usura e adesso si sta anche allargando di estorsione, e questo potrebbe derivare ai problemi di minacce. Assolutamente. Però credo che le cose siano, anzi non credo, sono sicuramente legate alla sua attività. Ecco, lei vive a Molfetta, se non sbaglio. No, io vivo a Terlizzi, Terlizzi, ma l'ufficio dell'associazione Anti-Racket è a Molfetta. Esatto, ecco, quindi professionalmente, diciamo così, la sua attività parte da Molfetta, anche se chiaramente si svolge in tutta la provincia di Bari. Allora, in tutta la regione. Ecco, ma qual è la differenza che si vive tra la provincia e i capoluoghi? Esiste una differenza oppure l'usura colpisce nella stessa maniera tutti i commercianti, tutti gli imprenditori, soprattutto i piccoli e i medi? No, credo che è tutto uguale, perché nella zona, in tutta la regione Puglia, in più anche nelle capoluoghi, diciamo che sono sempre di quelle organizzazioni criminali che si occupano di usura. Dopo arrivano prima l'estorsione e poi arrivano anche i commercianti a utilizzare i soldi della criminalità per lo scopo di usura. Certamente, anche perché l'usura è un polmone finanziario enorme per la criminalità organizzata. Io le volevo fare una domanda. Lei alcuni mesi fa rilasciò una dichiarazione alla Gazzetta del Mezzogiorno in cui parlava della rinascita della Sacra Corona Unita. Più modestamente me ne sono occupato anch'io nel tempo con alcune inchieste, ed effettivamente è stato negli anni un po' un fenomeno sottovalutato. Non è certamente quella che nacque o comunque proliferò con l'avvento di Raffaele Cutolo negli anni 80, lì espatriato intorno agli anni 80 con la sua nuova camorra organizzata, ma in ogni caso la Sacra Corona Unita si sta riorganizzando, appunto. Allora le chiedo, oggi che cos'è la Sacra Corona Unita? Diciamo che adesso la Sacra Corona Unita non è che si occupa più come negli anni passati di mettere bombe alle attività o utilizzare metodi più forti per farsi pagare l'estorsione o utilizzare qualche altro tipo di azione. Invece adesso diciamo che la Sacra Corona Unita, anche la criminalità pugliese, si sta riorganizzando diversamente, usando dei metodi di pagare poco ma tutti. Se non pagano, utilizzano lo scopo di non far riavvicinare più alla loro attività persone che vanno ad acquistare qualsiasi cosa. Ah, quindi hanno, diciamo così, che il vecchio slogan della sinistra è stato ripreso dalla Sacra Corona Unita, è stato mutuato con questo nuovo slogan: pagare poco, pagare tutti, anziché tutti. Benissimo. Ecco, cioè malissimo, non benissimo ovviamente. Male, perché diciamo che anche in Puglia, proprio per lo scopo di imprenditori di denunciare l'estorsione, si è approvata una legge importante in Puglia, che è la legge di anti-racket e anti-usura, che è uguale a quella nazionale, ma quella nazionale possono accedere a liberi professionisti e imprenditori, invece quella regionale possono accedere anche le famiglie, perché diciamo che anche in Puglia ci sono molte famiglie che hanno il problema di usura. Anche questo che lei dice, questo che lei dice è molto importante, mi permetto di risottolinearlo. Allora, la legge nazionale prevede che le domande anche per accedere al fondo anti-racket e anti-usura vengano presentate e documentate da imprenditori e commercianti, mentre invece qui la Regione Puglia ha fatto un passo avanti, vale a dire, mi corregga se sbaglio, anche i singoli familiari possono avere accesso a queste risorse, giusto? Ecco, questo è importante. Sarebbe... Questo è importante perché è l'unica regione che si è occupata di questo problema. E quindi brava la regione Puglia. Le chiedo, facendo un piccolo passo indietro, De Sciscolo, ma lei vive sotto scorta, ha una tutela? No. No. Ma no, perché no. Non la vuole o perché non frega assolutamente nulla a nessuno? No, mi scusi la brutalità. Non mi hanno mai chiesto, mi hanno detto di mettermi sotto scorta, mi hanno chiesto di anche, ho una vigilanza intorno a casa, di... In più anche l'arma dei carabinieri o la guardia di finanza o la polizia, in qualsiasi momento che mi chiamano, mi stanno vicino. Ah, beh, questo è importante comunque. No, è importante perché anche l'arma dei carabinieri è molto vicina a me, perché ha qualsiasi problema di contatto. Bene, bene, bene. Ecco, le chiedo allora una cosa forse ancora più importante della vigilanza e della tutela ad opera delle forze dell'ordine, vale a dire lo schermo di protezione della società civile, che è la prima cosa, quindi vale a dire i suoi concittadini, quelli di Terlizzi, che ricordiamo è un centro enorme alle porte di Bari, non è certamente un paesino, gli abitanti di Molfetta, insomma, come le stanno vicino, se le stanno vicino, a difficoltà o cammina per la strada a testa alta? Cammino anche testa alta, ci sono molti, una parte dei cittadini che mi sono vicino, mi complimentano anche per il mio operato che faccio in tutti i giorni, e ci sono cittadini che forse ho toccato che hanno avuto problemi di usura o fanno usura, che mi guardano in una maniera tutta diversa, però io ho una testa tutta alta che va davanti. Assolutamente. Anzi, io tutti i giorni aiuto tanta di quella gente che anche che non ha problemi di estorsione, hanno problemi di finanziarie, che si sono addebitati molto. Certo, non certo. Anche più a pagare. Senta, lo vogliamo ricordare un numero verde o un sito internet per tutti i pugliesi che fossero all'ascolto, che volessero contattarvi? Perché ricordiamo che l'unico modo per uscire dal racket e dall'usura è la denuncia, altri modi non esistono, inutile, diciamo, che vi allambiccate il cervello. Domani, mi scusi De Sciscolo, e poi lascio la parola, domani lo sentirete dire dalla viva voce di un'imprenditrice pugliese che racconterà la sua testimonianza. Prego De Sciscolo. La cosa importante è che negli anni 90 non esistevano leggi e imprenditori che avevano problemi erano tantissimi, non avevano possibilità di avere un fondo. Adesso ci sono dei fondi e gli imprenditori adesso possono denunciare e possiamo stare anche noi come associazione vicino all'imprenditore. Ecco, diamolo un sito internet, dove possono andare a trovare della documentazione? www.antiracketpuglia.it o www.ministerodellinterno.it. Oh, questo è importante perché siamo anche e con orgoglio una radio di servizio e quindi è giusto andare a visitare anche i siti di servizio che possano dire ai commercianti e agli imprenditori attenzione che c'è qualcuno che è pronto a darvi una mano. Io ringrazio De Cisciolo per la sua testimonianza. Grazie. Domani avremo la voce di un'imprenditrice. Dico grazie come sempre in redazione a Laura Faggin, in regia a Peter Bescapè, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani ancora con questo tema. Buona giornata a tutti. We'll be right back.